Capitolo 98 Teseo a Creta. Non si sa con certezza se Egeo fu indotto da Medea a mandare Teseo contro il feroce toro bianco di Posidone, oppure se, dopo la cacciata della maga da Atene, Teseo stesso si assunse il compito di eliminare il mostro per propiziarsi le simpatie degli ateniesi. Giunto con Eracle da Creta, lasciato libero nella pianura d'Argo e passato di là attraverso l'istmo, nella regione di Maratona, il toro aveva ucciso centinaia di uomini tra le città di Probalinto e Tricorinto, compreso, come taluni dicono, il figlio di Minosse, Androgeo. Tuttavia, Teseo audacemente afferrò quelle esiziali corna tra le mani e trascinò il toro per le vie d'Atene fino all'Acropoli, dove sacrificò l'animale ad Atena o ad Apollo. Nei pressi di Maratona, Teseo era stato accolto ospitalmente da una vecchia zitella chiamata Ecale, o Ecalene, che fece voto di sacrificare un ariete a Zeus se Teseo fosse ritornato sano e salvo. Morì tuttavia prima di rivedere il giovane ed egli istituì i riti ecalesi per onorare sia Ecale sia Zeus Ecaleo, riti che ancora oggi si celebrano. Poiché Teseo era poco più che un fanciullo a quell'epoca ed Ecale lo accarezzò con materno affetto, essa viene ora comunemente chiamata col diminutivo di Ecalene anziché Ecale. In espiazione della morte di Androgeo, Minosse volle che gli ateniesi inviassero ogni 9 anni, e cioè al termine di ogni grande anno, 7 fanciulli e 7 fanciulle nel labirinto di Creta, dove il Minotauro li avrebbe divorati. Questo Minotauro, che si chiamava Asterio o Asterione, era il mostro dalla testa di toro generato da Pasifae e dal toro bianco. Poco dopo l'arrivo di Teseo in città, gli ateniesi avrebbero dovuto pagare per la terza volta il gravoso tributo e lo spettacolo dei genitori angosciati all'idea di separarsi per sempre dai loro figli era così triste che Teseo si offrì come vittima volontaria, benché Egeo cercasse in ogni modo di dissuaderlo da tale proposito. Altri invece dicono che il suo nome fu estratto a sorte e, secondo altri ancora, lo stesso Minosse, accompagnato da una grande flotta, sarebbe giunto ad Atene per scegliere le vittime. Il suo sguardo si posò su Teseo, il quale, benché nato a Trezene e non ad Atene, si offrì di unirsi alle vittime a patto che se fosse riuscito ad abbattere il Minotauro con le sole mani, Atene sarebbe stata esentata dal tributo. Nei 2 viaggi precedenti le navi che portavano le vittime a Creta avevano inalberato vele nere, ma Teseo si sentiva certo del favore degli dèi ed Egeo gli affidò dunque una vela bianca perché la inalberasse al ritorno in segno di vittoria. Altri dicono che si trattava di una vela rossa, tinta nel sugo delle bacche di cocciniglia. Quando i nomi delle vittime furono estratti a sorte dinanzi al tribunale supremo, Teseo guidò i suoi compagni al tempio del Delfino, dove, in nome di tutti, offrì ad Apollo un ramo di olivo avvolto in un filo di lana bianca. Le 14 madri portarono le provviste per il viaggio e narrarono ai loro figli favole prodigiose ed eroiche per rincuorarli. Teseo sostituì a 2 delle fanciulle dei giovanetti dall'aspetto effeminato, ma dotati di insolito coraggio e presenza di spirito. Raccomandò loro di fare dei bagni caldi, di evitare i raggi solari, di profumarsi il corpo e i capelli con oli ed essenze e di imitare l'incedere e il gestire delle donne. Riuscì così a ingannare Minosse e a far credere che quei 2 fossero fanciulle. Feace, l'antenato dei Feaci, dai quali fu accolto Odisseo, pilotava ritto a prua la nave a 30 remi che trasportava le vittime a Creta, poiché a quei tempi gli ateniesi non erano affatto esperti nell'arte di navigare. Altri dicono che il pilota fu Fereclo. Chi invece lo chiama Nausiteo è forse nel giusto, poiché Teseo al suo ritorno innalzò 2 monumenti a Nausiteo e a Feace sul Falero, il porto donde erano salpati, e la locale festa dei piloti si celebra in loro onore. L'oracolo delfico aveva consigliato Teseo di prendere Afrodite come guida e compagna del suo viaggio. Egli sacrificò dunque alla dea sul Lido, ed ecco che la vittima, una capra, diventa un capro negli spasimi dell'agonia. Questo prodigio valse ad Afrodite l'appellativo di Epitragia. Teseo salpò il nono giorno del mese di Munichione, aprile. Ogni anno, in quella ricorrenza, gli ateniesi mandano vergini al tempio di Apollo per propiziarsi il favore del dio, poiché Teseo omise di farlo prima di partire. L'ira di Apollo si manifestò in una tempesta che costrinse Teseo a rifugiarsi a Delfi e a offrire colà sacrifici. Quando la nave giunse a Creta alcuni giorni dopo, Minosse si recò al porto per contare le vittime. Innamoratosi di una delle vergini ateniesi, ancor si discute se si trattasse di Peribea, che divenne poi madre di Aiace, di Eribea o di Ferebea, poiché i nomi erano tanto simili da generar confusione, l'avrebbe violentata sul posto se Teseo non fosse insorto dichiarando che era suo compito, come figlio di Posidone, di difendere le vergini dall'oltraggio dei tiranni. Minosse, con una risata di scherno, rispose che Posidone non aveva mai rispettato le vergini che avessero acceso il suo desiderio. Dunque concluse: «Se davvero sei figlio di Posidone, provamelo, ripescando questo anello dal fondo del mare». E ciò dicendo gettò tra le onde l'aureo sigillo che portava al dito. «Tocca a te per primo dimostrarmi che sei figlio di Zeus», replicò Teseo. Subito Minosse innalzò una preghiera al cielo e alle sue parole «Padre Zeus, ascoltami!» rispose il balenare di un lampo e un fragore di tuono. Senza esitare, Teseo si tuffò allora nel mare dove un branco di delfini lo scortò fino al palazzo delle Nereidi. Taluni dicono che la Nereide Teti donò a Teseo la corona ingioiellata, dono nuziale di Afrodite, che più tardi cinse il capo di Arianna. Altri che Anfitrite, la dea del mare, gli consegnò la corona e ordinò alle Nereidi di nuotare tutt'attorno per trovare l'anello. In ogni caso, Teseo emerse dal fondo del mare reggendo sia l'anello sia la corona, così come Micone l'ha dipinto sulla terza parete del santuario di Teseo. Il favore di Afrodite accompagnava dunque Teseo. Non soltanto Peribea e Ferebea invitarono il cavalleresco giovane a giacersi con loro e non furono respinte, ma la stessa figlia di Minosse, Arianna, si innamorò di lui a prima vista. «Ti aiuterò a uccidere il mio fratellastro, il Minotauro», essa gli promise in segreto, «purché io possa ritornare con te ad Atene come tua moglie». Teseo accettò con piacere questa proposta e giurò di sposare Arianna. Ora, prima di lasciare Creta, Dedalo aveva donato ad Arianna un gomitolo di filo magico, spiegandole come sarebbe potuta entrare e uscire dal labirinto. Essa doveva aprire la porta di ingresso e assicurare allo stipite un capo del filo. Il gomitolo si sarebbe poi srotolato via via negli intricati recessi fino alla camera segreta dove si trovava il Minotauro. Arianna diede il gomitolo a Teseo e gli raccomandò di seguire il filo finché avesse sorpreso il Minotauro addormentato. Avrebbe potuto così afferrare il mostro per i capelli e sacrificarlo a Posidone. Arrotolando poi il filo in gomitolo, sarebbe giunto di nuovo alla porta d'ingresso. Quella notte stessa Teseo fece quanto gli era stato detto, ma non si sa con certezza se egli uccise il Minotauro con la spada donatagli da Arianna o con le nude mani o con la sua famosa clava. Un bassorilievo ad Amide ci mostra il Minotauro legato e portato in trionfo ad Atene, ma questa versione non è accettata da tutti. Quando Teseo, con le vesti macchiate di sangue, emerse dal labirinto, Arianna lo abbracciò appassionatamente e guidò il gruppo di tutti gli ateniesi al porto. Nel frattempo, infatti, due giovani dall'aspetto effeminato avevano ucciso le guardie dinanzi all'appartamento delle donne, liberando le vergini. Salirono in fretta sulla nave, dove Nausiteo e Feace vegliavano in attesa e si allontanarono rapidamente a forza di remi. Tuttavia, benché Teseo avesse aperto delle falle negli scafi cretesi per impedire che lo inseguissero, dovette affrontare una battaglia navale nelle acque del porto. Per fortuna non subì perdite e riuscì a fuggire con il favore delle tenebre. Alcuni giorni dopo, sbarcato nell'isola allora chiamata Dia e ora nota col nome di Nasso, Teseo abbandonò Arianna addormentata sulla spiaggia e riprese il largo senza di lei. Perché l'abbia fatto è rimasto un mistero. Taluni dicono che Teseo abbandonò Arianna per la sua nuova amante Egle, figlia di Panopeo. Altri sostengono che, mentre venti contrari lo trattenevano a Dia, egli rifletté sulla sua posizione e temette che l'arrivo di Arianna ad Atene suscitasse uno scandalo. Altri ancora dicono che Dioniso, apparso a Teseo in sogno, gli ordinò minacciosamente di abbandonargli Arianna e che Teseo, ridestatosi, vide la flotta di Dioniso avvicinarsi a Dia e salpò le ancore atterrito. Dioniso, infatti, per opera di magia, gli aveva fatto dimenticare la promessa fatta ad Arianna e persino l'esistenza di lei. I sacerdoti di Dioniso ad Atene affermano che quando Arianna si trovò sola sul Lido deserto, ruppe in disperati lamenti, rammentando con quanta angoscia aveva assistito Teseo che si preparava ad affrontare il suo mostruoso fratellastro e quali fervide preghiere aveva innalzato per il suo successo. Per amore di Teseo, inoltre, essa aveva abbandonato i genitori e la patria. Invocò ora vendetta dall'intero universo e Zeus annuì consenziente ed ecco Dioniso, con il suo gaio corteo di satiri e menadi, giungere in aiuto di Arianna. Egli la sposò senza por tempo in mezzo, posandole sul capo la corona di Teti, e Arianna gli generò numerosi figli. Tra costoro soltanto Toante ed Enopione sono a volte chiamati figli di Teseo. La corona che Dioniso più tardi immortalò in cielo nella costellazione della corona boreale era stata fabbricata da Efesto con oro e rubini indiani disposti in forma di rose. I cretesi tuttavia rifiutano di ammettere che il Minotauro fosse mai esistito o che Teseo avesse conquistato segretamente il cuore di Arianna. Essi dicono che il labirinto era soltanto una prigione ben custodita dove venivano rinchiusi i fanciulli ateniesi in attesa dei giochi funebri in onore di Androgeo. Taluni di essi venivano sacrificati sulla sua tomba, altri concessi come premio ai vincitori dei giochi. Accadde che un crudele e arrogante generale di Minosse, chiamato Tauro, vincesse sempre i giochi, un anno dopo l'altro portandosi via tutti i giovanetti e le fanciulle in palio. Tauro tradì la fiducia di Minosse, poiché, a quanto si diceva, egli ebbe una relazione adulterina con Pasifae, protetto dalla connivenza di Dedalo, e uno dei gemelli nati da quella unione gli rassomigliava come una goccia d'acqua. Minosse dunque concesse con piacere a Teseo il privilegio di combattere contro Tauro. Nell'antica Creta anche le donne assistevano ai giochi e Arianna si innamorò di Teseo quando lo vide per ben 3 volte piegare le spalle del suo avversario fino a terra. Anche Minosse fu molto soddisfatto dell'esito del combattimento, consegnò i premi a Teseo e lo accettò come genero, rinunciando per sempre ad imporre quel crudele tributo ad Atene. Una canzone popolare bottiea conferma che non tutte le vittime ateniesi venivano messe a morte. Secondo tale canzone, i cretesi inviavano a Delfi un'offerta di bimbi primogeniti, per lo più figli di schiavi ateniesi da molto tempo residenti in Creta. I Delfi, tuttavia, non potevano mantenere tutti questi fanciulli con le magre risorse della loro piccola città e li inviarono in Italia per fondare una colonia a Iapigia. Più tardi essi si stabilirono a Bottiea, in Tracia, e il nostalgico canto delle fanciulle bottiee, «Lasciateci ritornare ad Atene», è un costante ricordo delle loro origini. I ciprioti e altri ancora danno della vicenda una versione del tutto diversa. Essi dicono che Minosse e Teseo strinsero sotto giuramento l'accordo che nessuna nave, salvo largo comandata da Giasone che doveva liberare il mare dai pirati, potesse navigare in acque greche con un equipaggio di più di 5 uomini. Quando Dedalo fuggì da Creta, Minosse venne meno ai patti, inseguendolo con la sua flotta da guerra, e attirò così l'ira di Posidone, nel cui nome era stato pronunciato il giuramento. Il dio scatenò una tempesta che spinse Minosse verso la Sicilia, dove trovò la morte. Il figlio di Minosse, Deucalione, non appianò il dissidio e anzi minacciò di mettere a morte tutti gli ostaggi che Teseo aveva lasciato sull'isola a garanzia del patto se gli ateniesi non gli avessero consegnato Dedalo. Teseo replicò che Dedalo era suo parente e chiese cortesemente se non si potesse venire a un compromesso. Egli scambiò parecchie lettere con Deucalione sull'argomento, ma frattanto segretamente armava navi da guerra. Talune nel porto di Timetide, lontano dalle rotte più battute, altre a Trezene, dove Pitteo aveva un arsenale ignoto ai cretesi. Di lì a 2 mesi la flotta alzò le vele, guidata da Dedalo e da altri uomini fuggiti da Creta. I cretesi scambiarono le navi che si avvicinavano per la flotta di Minosse rimasta in Sicilia e le salutarono con entusiasmo. Teseo poté così impadronirsi del porto senza incontrare resistenza e si diresse subito a Cnosso, dove sterminò le guardie di Deucalione e uccise Deucalione stesso in una camera segreta del palazzo. Il trono di Creta passò ad Arianna e Teseo si dichiarò generosamente disposto a venire a patti con lei. Arianna restituì gli ostaggi ateniesi e fu concluso un trattato di perpetua amicizia tra le due nazioni, suggellato dall'unione delle due corone. Infatti Arianna sposò Teseo. Dopo aver celebrato le nozze con grandi feste, essi salparono assieme per Atene, ma una tempesta li costrinse a riparare a Cipro. Colà Arianna, che era già incinta e temeva di abortire per il mal di mare, chiese di essere sbarcata ad Amatonte. Così fu fatto, ma non appena Teseo ebbe rimesso piede sulla nave, un vento violentissimo costrinse la flotta a prendere il largo. Le donne di Amatonte furono molto cortesi con Arianna, confortandola con delle lettere che fingevano fossero state scritte da Teseo, il quale stava riparando le navi in un'isola vicina. E quando Arianna morì di parto, la onorarono con ricchissimi funerali. Ad Amatonte si vede ancora la tomba di Arianna, in un boschetto a lei consacrato col nome di Aridela. Teseo, di ritorno dalla costa siriaca, fu molto addolorato per la morte della moglie e stanziò una forte somma per alimentare il suo culto. I ciprioti celebrano ancora la festa di Arianna, il secondo giorno di settembre, quando un giovane si sdraia nel suo boschetto e imita una donna in travaglio. E si venerano a Cipro due piccole statue di Arianna, una di argento e l'altra d'ottone, che Teseo vi lasciò. I ciprioti dicono che Dioniso, lungi dallo sposare Arianna, si indignò perché assieme a Teseo essa aveva profanato la sua grotta Nassia e se ne lagnò con Artemide, che uccise Arianna durante il parto con i suoi dardi spietati. Ma altri dicono che Arianna si impiccò per paura di Artemide. Riprendiamo ora il racconto di ciò che accadde a Teseo. Da Nasso egli salpò per Delo e colà sacrificò ad Apollo, celebrando giochi atletici in suo onore. In tale occasione, anzi, egli introdusse la nuova usanza di incoronare il vincitore con foglie di palma e di porgli uno stelo di palma nella mano destra. Consacrò altresì al dio una piccola statua lignea di Afrodite, opera di Dedalo, che Arianna aveva portato da Creta e lasciato a bordo della nave. Gli ateniesi, infatti, l'avrebbero accolta con commenti cinici. Questa statua, che ancora si mostra a Delo, poggia su una base quadrata anziché sui piedi ed è sempre inghirlandata. Un altare di corna sorge presso il lago rotondo di Delo. Apollo stesso lo costruì all'età di 4 anni, ammucchiando l'uno sull'altro innumerevoli corna di capre uccise da Artemide sul monte Cinto, e quella fu la prima opera architettonica del dio. Le fondamenta dell'altare e le mura che lo cingono sono pure di corna prese tutte da un solo lato delle vittime, ma non si sa se il destro o il sinistro. Ciò che fa di questo altare una delle 7 meraviglie del mondo è che le corna aderiscono le une alle altre senza aiuto di calcina o di altro. Attorno all'altare, o secondo un'altra versione attorno all'altare di Afrodite su cui era stata posta la statua dedalica, Teseo e i suoi compagni danzarono la danza della gru che si snoda in evoluzioni labirintiche interrotte da passi cadenzati al suono di musica d'arpa. I Deli eseguono ancora tale danza che Teseo importò da Cnosso. Colà Dedalo aveva costruito per Arianna una pista di danza copiata dal labirinto egizio, dove il susseguirsi delle varie figure era indicato da strisce di marmo bianco in rilievo. Quando Teseo e i suoi compagni eseguirono la danza della gru a Cnosso, fu la prima volta che uomini e donne danzarono assieme. Molte persone fedeli alle antiche tradizioni marinai in specie eseguono una danza simile in diverse città della Grecia e dell'Asia Minore, e così pure i bambini della campagna italiana, poiché da questa danza ebbe origine il gioco di Troia. Arianna si vendicò ben presto di Teseo, infatti sia per il dolore di averla perduta, sia per la gioia di rivedere la costa dell'Attica, che aveva potuto raggiungere soltanto dopo strenua lotta con i venti contrari, egli si scordò di inalberare la vela bianca. Egeo, che stava in vedetta sull'Acropoli, dove sorge ora il tempio della vittoria non alata, Aptera, avvistò la vela nera, svenne e precipitò sfracellandosi nella valle sottostante. Ma altri dicono che egli si gettò volontariamente nel mare, che da quel giorno fu chiamato Egeo. Teseo non ebbe notizie di questa sventura finché non portò a termine i sacrifici promessi agli dei per il suo felice ritorno. Seppellì poi Egeo e lo onorò con un santuario eroico. All'ottavo giorno del mese Pianepsione, ottobre, l'anniversario del ritorno di Teseo da Creta, gli ateniesi scendono in folla alla spiaggia con delle pentole in cui fanno bollire diverse qualità di fave, per ricordare ai loro figli che Teseo, costretto a ridurre al minimo le razioni della ciurma, fece cuocere tutto assieme quanto restava delle provviste quando toccò terra e gli uomini poterono finalmente riempirsi lo stomaco. In quella medesima festa si canta un inno di ringraziamento e si porta in processione un ramo d'olivo cinto di lana bianca e adorno di frutti di stagione, per ricordare l'altro ramo d'olivo che Teseo consacrò prima della partenza. Poiché la data cade nella stagione del raccolto, Teseo istituì anche la festa dei tralci di vite, sia per onorare Atena e Dioniso che gli apparirono a Nasso, sia per onorare Dioniso e Arianna. I due giovani che reggono i rami rappresentano i giovani che Teseo portò con sé in Creta, travestiti da fanciulle, e che lo seguirono nella processione trionfale al suo ritorno. 14 donne reggono cesti di provviste e prendono parte al sacrificio. Esse rappresentano le madri delle vittime tratte in salvo, ed è loro compito narrare favole e antichi miti, come fecero quelle madri prima che la nave salpasse. Teseo consacrò un tempio ad Artemide Salvatrice nella piazza del mercato a Trezene, e i suoi concittadini lo onorarono con un santuario quando egli era ancora in vita. Le famiglie che avrebbero dovuto pagare il tributo a Creta si assunsero l'incarico di fornire le vittime per i sacrifici e Teseo affidò la cura sacerdotale del suo tempio ai Fitalidi per ringraziarli della loro ospitalità. La nave che portò Teseo a Creta ha sempre fatto ogni anno un viaggio fino a Delo e ritorno, ma è stata ormai tante volte riparata e riadattata che i filosofi la citano come esempio quando discutono il problema dell'identità. L'influenza cretese si fece sentire in Grecia verso la fine del XVIII secolo avanti Cristo, probabilmente a opera di un'aristocrazia ellenica che nell'isola un paio di generazioni prima si era impadronita del potere e vi aveva gettato le basi di una nuova cultura. Il limpido racconto dell'incursione di Teseo a Creta, che Plutarco ha tratto da Clidemo, appare più che plausibile. Tale racconto ci descrive la ribellione degli ateniesi contro un signore cretese che prelevava ostaggi dalla città per assicurarsene l'obbedienza, la costruzione di una flotta segreta, il saccheggio della città di Cnosso non fortificata durante l'assenza del grosso della flotta cretese inviata in Sicilia e il conseguente trattato di pace ratificato dal matrimonio del re ateniese con Arianna, principessa cretese. Questi eventi, che dovrebbero risalire al 1400 avanti Cristo, si rispecchiano nel racconto mitico. Atene deve pagare un tributo di fanciulli e fanciulle per espiare l'assassinio di un principe cretese. Teseo, uccidendo il toro di Minosse oppure sconfiggendo il comandante delle forze cretesi in una gara di lotta, riuscì a esentare Atene da questo tributo. Sposò poi Arianna, principessa di sangue reale, e fece la pace con Minosse stesso. L'uccisione di Asteria dalla testa di toro, detto Minotauro, toro di Minosse, la lotta di Teseo con Tauro, toro, e la cattura del toro cretese sono altrettante versioni del medesimo episodio. Bolintos, che diede il suo nome all'Attica Probalinto, era la parola cretese che indicava il toro selvatico. Minosse era l'appellativo dei re della dinastia di Cnosso, che aveva un toro celeste per emblema. Asterio può significare infatti del sole o del cielo, e pare che il re travestito da toro si accoppiasse ritualmente alla grande sacerdotessa travestita da vacca lunare. La leggenda del labirinto può essere nata dal fatto che il palazzo di Cnosso, la casa della Labris o Bipenne, era un tale intrico di camere e corridoi che gli ateniesi stentarono a scovare il re per ucciderlo. Ma non è tutto. Un vasto spazio di fronte al palazzo era occupato da una pista di danza coperta da un disegno primaverile. Lo schema di questo disegno in origine pare fosse stato ispirato dall'intrico di cespugli usato dai cacciatori per catturare pernici maschi che venivano attirate dai richiami amorosi di una pernice femmina chiusa in gabbia al centro dei cespugli stessi. E i danzatori nella loro esibizione primaverile avrebbero imitato l'estatica e saltellante danza d'amore della pernice maschio, destinata a essere poi abbattuta dai cacciatori a colpi di bastone. Una oinocoe, brocca da vino, etrusca da tragliatella, sulla quale si vedono due eroi a cavallo, ci dà una spiegazione della teoria religiosa della danza della pernice. Il primo dei due eroi porta lo scudo con lo stemma di una pernice e un demone della morte lo sovrasta. L'altro eroe regge la lancia e uno scudo con un'anatra per stemma. Sullo sfondo si vede lo schema di un labirinto che si ritrova non soltanto su certe monete cretesi, ma anche in un gioco praticato fino al XIX secolo dai bambini inglesi che calpestavano l'erba formando un intrico di sentieri. La gelosia amorosa spingeva il re verso la morte, si può interpretare, come una pernice nel labirinto di cespugli e su di lui trionfava il successore. Soltanto un eroe eccezionale, Dedalo o Teseo, poteva uscirne vivo e a questo proposito è di grande importanza la scoperta di un labirinto cretese inciso su una roccia presso Bosinney, in Cornovaglia. Il burrone dove il dottor Renton Green scoprì questo labirinto è uno degli ultimi rifugi della cornacchia di Cornovaglia e questo uccello ospita l'anima di Re Artù, che scese agli inferi e che la leggenda associa a Bosinney. Una danza labirintica pare fosse importata in Gran Bretagna dal Mediterraneo orientale a opera di agricoltori neolitici nel terzo millennio avanti Cristo, poiché rudimentali labirinti di pietra simili a quelli tracciati dai britannici nell'erba si ritrovano nella zona denominata Ciotola B della Scandinavia e della Russia nordoccidentale. Labirinti entro o accanto a chiese, un tempo usati a scopo penitenziale, sono stati trovati nell'Europa sudorientale. I labirinti d'erba inglesi sono noti di solito col nome di Città di Troia, e così pure i labirinti gallesi Caer Droia. I romani probabilmente li chiamarono così per analogia con il gioco di Troia, una danza labirintica eseguita dai giovani aristocratici in onore dell'antenato di Augusto, Enea il Troiano. Tuttavia, secondo Plinio, veniva danzata dai bambini del contado italiano. A Cnosso il culto del toro celeste succedette al culto della pernice e le evoluzioni dei danzatori finirono col rappresentare il corso annuale dei corpi celesti. Se dunque a tale danza partecipavano 7 giovani e 7 fanciulle, essi dovevano rappresentare i 7 titani e le 7 titanesse del Sole, della Luna e dei 5 pianeti. Tuttavia, nell'arte cretese non sono state trovate prove concrete dell'esistenza di un culto dei titani nell'isola. Pare che la danza della gru a Delo, anche le gru eseguono una danza d'amore, seguisse uno schema simile a quello labirintico. In certi casi i ballerini tenevano in mano una corda che li aiutava a mantenere le giuste distanze e a seguire lo schema senza errori, e ciò può aver dato origine alla leggenda del gomitolo di filo. Ad Atene, sul monte Sisifo, la danza della corda era chiamata Cordax. Lo spettacolo che si svolgeva nell'arena dei tori a Creta consisteva in una serie di salti acrobatici eseguiti da giovanetti che agguantavano le corna del toro lanciato alla carica e gli rimbalzavano poi sulla schiena con una capriola. Si trattava evidentemente di una cerimonia religiosa e gli esecutori dei giochi rappresentavano forse i pianeti. Tale sport non doveva essere così pericoloso come molti studiosi dell'argomento lo descrivono, a giudicare dai pochissimi incidenti mortali dei banderillos nelle arene spagnole. In un affresco cretese si vede che un compagno era pronto a sorreggere l'acrobata quando egli o essa toccava terra. Arianna, che i greci chiamavano Ariagne Santissima, fu probabilmente l'appellativo della dea Luna che si onorava con la danza e con i salti nell'arena dei tori. L'alta e fruttifera madre dell'orzo, chiamata anche Aridela, la molto manifesta. Il fatto che si portassero in processione, in onore di Arianna o di Dioniso, rami carichi di frutti e il suicidio di Arianna per impiccagione, poiché aveva paura di Artemide, ci fanno supporre che a quei rami fossero appese anche delle bambole arianne. La dea bambola beota dal ventre a pera che si trova al Louvre è Arianna o Erigone o Artemide impiccata, e nella Sardegna di Dedalo sono state ritrovate delle bambole di bronzo con le braccia e le gambe snodabili. Nel tesoro di Mocro sono stati rinvenuti serti aurei con fiori di gemme. Sposando la sacerdotessa della luna, Teseo divenne signore di Cnosso, e sulle monete di Cnosso si vede il primo quarto di luna al centro di un labirinto. Secondo la legge matriarcale, una principessa perdeva ogni diritto alla sovranità se seguiva il marito in altre terre. Ecco perché Teseo lasciò Arianna a Dia, un'isola cretese al largo di Cnosso. Il Dioniso cretese, rappresentato da un toro, cioè Minosse, era il legittimo marito di Arianna, e il vino cretese veniva servito nel corso delle loro orge. Ciò può spiegare perché Dioniso, come narra Omero, si indignasse al vedere che Arianna si era giaciuta con Teseo, uno straniero. Molte antiche usanze ateniesi del periodo miceneo vengono spiegate da Plutarco e da altri come un retaggio della visita di Teseo a Creta. Ad esempio, la prostituzione rituale delle fanciulle e la sodomia rituale, caratteristica del culto di Anata a Gerusalemme e della dea Siria a Ieropoli, che sopravvissero larvatamente nella consacrazione propiziatoria delle vergini ad Apollo o nella processione del raccolto, dove due rami d'olivo erano retti da due giovani invertiti. I rami carichi di frutti ricordano il lulab portato in processione a Gerusalemme all'inizio dell'anno, nella festa dei tabernacoli che si celebrava anche all'inizio dell'autunno. I tabernacoli erano una festa della vendemmia e corrispondevano alle oscoforie ateniesi, ossia la processione dei grappoli che si concludeva con una gara di corsa. In origine il vincitore della corsa diventava il nuovo re, come a Olimpia, e gli veniva offerta una miscela di olio, vino, miele, formaggio sminuzzato e farina, cioè il divino nettare e l'ambrosia degli dei. Plutarco associa Teseo, il nuovo re, con questi riti, dicendo che egli giunse mentre la festa era in pieno svolgimento e non ebbe alcuna colpa della morte del suo predecessore Egeo. Ma in verità il nuovo re lottava con il vecchio re e lo gettava, come Farmacos, giù dalla roccia bianca nel mare. Nella rappresentazione iconografica che il mitografo ha indubbiamente male interpretato, la nave di Teseo dalla vela nera doveva essere la barca pronta a soccorrere il Farmacos. La barca ha una vela nera perché di solito i pescatori del Mediterraneo tingevano vele e reti per evitare che la salsedine le corrodesse. Dalla cocciniglia si estraeva il liquido rosso usato per tingere la faccia del re sacro, e questa bacca fu dunque associata al simbolo della regalità. Ecalene, la vecchia zitella, è probabilmente una forma contratta di Ecate Selene, la luna che colpisce da lontano, vale a dire Artemide. Pare che agli uomini, nell'epoca preellenica, fosse proibito mangiare fave, e i pitagorici continuarono a rispettare tale usanza, convinti che le fave ospitassero le anime dei loro antenati, che se un uomo, anziché una donna, la mangiava, poteva togliere a uno di questi antenati la possibilità di reincarnarsi. La popolare festa delle fave fu forse una deliberata sfida da parte ellenica alla dea che aveva imposto il tabù. Lo stesso dicasi della carica sacerdotale affidata da Teseo ai fitalidi, coltivatori. La forma femminile di questo nome si ricollega infatti alla coltivazione del fico che, come la coltivazione delle fave, era rigorosamente riservata alle donne. I ciprioti onoravano Arianna come la dea della nascita di Amatonte, un appellativo che spettava ad Afrodite. La sua festa autunnale celebrava la nascita dell'anno nuovo, e il giovane che imitava le sue doglie doveva essere il suo amante regale Dioniso. Questa usanza, nota come couvade, era diffusa in molte parti d'Europa, compresi certi distretti dell'Anglia orientale. L'altare di corna sacro ad Apollo, a Delo, è venuto recentemente alla luce. L'altare e le sue fondamenta sono spariti, e il toro ha sostituito la capra come animale rituale nelle decorazioni di pietra, seppure si trattò mai di capra. Un sigillo minoico mostra la dea ritta su un altare fatto interamente di corna di toro. L'affresco allegorico di Micone che rappresentava Teti che donava una corona e un anello a Teseo, mentre Minosse, furibondo, stava a osservare dalla spiaggia, celebrava probabilmente il passaggio della supremazia sui mari dalle mani dei cretesi a quelle degli ateniesi. Ma può anche darsi che Minosse celebrasse simbolicamente le nozze con la dea del mare, gettando un anello nelle onde, come facevano i dogi di Venezia nel Rinascimento. Enopione e Toante sono a volte detti figli di Teseo, perché essi erano gli eroi di Chio e di Lemno, sudditi e alleati degli ateniesi.